Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, all'Associazione Difesa Consumatori. Al telefono con noi c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, in questi ultimi tempi è arrivata a casa la bolletta della corrente elettrica che ci ha lasciato, come dire, un po' di amaro in bocca. Molti lo sapevano, qualcuno più distratto no, perché poi non tutti per forza devono ascoltare la radio, leggere i giornali o guardare la televisione. E poi, leggendo bene tra le righe della bolletta elettrica, c'è questa voce che riguarda il canone della televisione, insomma 70 euro in più sulla spesa normale della corrente elettrica. Quindi già uno di per sé è sconfortato, perché poi d'estate soprattutto abbiamo magari tenuto acceso un po' di più del solito il condizionatore per avere un po' di fresco e quant'altro. Insomma, le bollette della corrente elettrica sono sempre care, e in più ce ne sono anche i 70 euro. Sì, penso che questa bolletta abbia spiazzato un po' tutte le famiglie, o tante famiglie, tante anche quelle che si aspettavano e che sapevano della presenza del canone, perché effettivamente i 70 o 80 euro presenti nella bolletta hanno sicuramente fatto lievitare le fatture. E devo dire che un po' tutti, io stesso insomma, ho un po' strabuzzato gli occhi quando ho visto l'ultima bolletta dell'energia elettrica. Chiaramente ci sono questi famosi soldi del canone, tante persone, come dici te, non lo sanno, tantissime ci hanno chiamato in questo periodo, anche magari ne parleremo per un'altra puntata per contestare appunto situazioni di canone non dovuto. Però diciamo che negli ultimi tempi le persone segnalano sicuramente anche un aumento dei costi dell'energia, cioè dell'energia elettrica, ma anche del gas. Ora, come associazione chiaramente noi affrontiamo tantissimi casi, molto spesso ci sono anche delle fatture non dovute, cioè degli importi che erroneamente sono attribuiti a degli utenti. Poi interveniamo con il nostro ufficio legale e li contestiamo. Però Francesco, è pur vero che molto spesso siamo noi stessi un po' a essere causa dei nostri mali, perché non conosciamo esattamente quanto consumano per esempio certi elettrodomestici e quanto male ci facciamo quando utilizziamo per molto tempo alcuni strumenti. Periodicamente, anzi, ci piace dare dei consigli a riguardo, perché crediamo che una bolletta meno cara dipenda anche dalla capacità e dalle conoscenze degli utenti e delle famiglie per quanto riguarda i consumi. Ricordiamo poi che qualcuno di noi ha la bolletta magari con la tariffa monoraria, chi ce l'ha bioraria, insomma bisogna anche saperla leggere la bolletta e eventualmente richiedere le modifiche. Ovvio, questo noi stiamo facendo una battaglia, Francesco, per quello che possiamo, ovviamente anche mediatica, perché effettivamente più si conoscono le situazioni, più si conoscono i propri consumi e più possibilità c'è anche di stipulare dei contratti adeguati proprio alla propria tipologia di consumi. Quindi insomma bisogna sempre studiare e stare molto attenti. Però ecco, le cose su cui le persone devono porre molta attenzione riguardo invece l'utilizzo di alcuni, soprattutto di alcuni elettrodomestici. Sappiamo tutti ad esempio che la lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che ci fanno spendere molti soldi, e il consiglio un po' classico, però che non tutti seguono, è quello di utilizzare la lavatrice a 30 gradi anziché a temperature superiori, perché pensa Francesco che si possono raggiungere anche i risparmi del 90% della corrente elettrica. E diciamo anche da studi insomma effettuati da esperti che forse è più importante questa considerazione piuttosto che impostare i vari programmi eco o cose del genere, perché effettivamente usare la lavatrice attorno ai 30 gradi sicuramente aiuta a un grande risparmio. Tu dicevi del condizionatore, e questo è un altro elemento fondamentale. Siamo forse stati un po' fortunati quest'estate, perché non è stata un'estate caldissima, però insomma diciamo che il vizio di accendere il condizionatore appena arriva l'estate ce l'hanno un po' tutti. Quindi diciamo, intanto utilizzatelo con accortezza, fa consumare moltissimo, fa spendere moltissimo. E un altro consiglio, ti direi classico, ma sempre da tenere in considerazione, è quello di utilizzare il programma di deumidificazione, magari abbinandolo anche a un ventilatore, perché questo può portare anche a un taglio dei consumi, dei costi del 75%. Poi chiaramente, e questo lo sappiamo tutti, un frigorifero buono di classe A++ rispetto a uno di classe C, ovviamente uno della classe peggiore, permette anche un risparmio di 100 euro all'anno. Un'altra cosa, ecco, magari non ce l'hanno tutti, però l'asciugatrice fa consumare molta energia elettrica, lo sappiamo. Ridurre anche di un quarto l'uso dell'asciugatrice, magari utilizzando metodi più tradizionali, può portare anche a un risparmio di 160 euro all'anno. Tre altri consigli si può anche dire di, anche là è sempre un po' da valutare, però di passare anche al mercato libero per quanto riguarda la corrente elettrica. Non si raggiungono risparmi clamorosi, però risparmi tra il 7 e il 10% rispetto alle tariffe dell'autorità si possono raggiungere. Ti aggiungo un altro paio di particolari, sì, un altro paio di curiosità, se mi permetti, Francesco, perché ad esempio noi siamo straconvinti, ed è giusto, che ad esempio il phon, il ferro da stiro e il phon elettrico facciano consumare molto, ed è vero, però è anche pur vero che non hanno un utilizzo così frequente, cioè non restano accesi tutti i giorni, quindi assorbono sì molta corrente, ma alla fine non influiscono in modo determinante rispetto invece agli elettrodomestici che ho descritto prima. Quindi non determinano in modo fondamentale poi il costo finale della bolletta. Certo. Partiamo poi un mito, Francesco, quello appunto del fatto che spendiamo molto anche per le spie accese o soprattutto per il caricabatterie attaccato alla presa elettrica. Guarda, è stato calcolato che in un anno tre caricabatterie attaccati 24 ore su 24 alla fine portano un costo di 2,10 euro, quindi completamente influente. No, quello che voglio spiegare è meglio staccarlo ovviamente il caricabatterie, e fin qua ci siamo, però non facciamoci anche prendere dai falsi miti, vediamo quali sono le cose che veramente ci fanno consumare, che sono un po' quelle che abbiamo detto all'inizio, insomma. Certo, io aggiungerei, salutandoti, che se uno ha la tariffa bioraria, come sempre, fare la lavatrice, l'asciugatrice e, che ne so, lavapiatti dopo le 8 della sera è una buona cosa. Va bene, grazie a Gianluca Codognato, che ritroviamo con un altro appuntamento dell'Adico tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.